so, HBO, NBC, che sono un attivo a caso, che trasmetteva dalla Svizzera, oppure l'altro KNL dagli Stati Uniti, e vedere un po' tutti così, poi anche quelli italiani, a seguirsi un po' questi sistemi. Ancora più bello e interessante, potreste andare su delle frequenze marine che diramano i bollettini del mare, ad esempio, quelli tipo Navtex, che sono anche in onde lunghe. E quella sarebbe una bella sensazione, che abbiamo trovato anche qua vicino una grossa stazione, che è quella della Maddalena, che è forte grande, come adesso non mi viene il nome, comunque se tu vai alla Maddalena, guardi su quella montagna, vedrai queste antenne lunghe, quelle sono antenne che lavorano a 459, dovrebbe essere, anzi no, 495, che lavorano in telex, diciamo, è un telex che si chiama però Navtex, che diramano ogni tot d'orario i bollettini delle notizie marittime, ecco. E poi sarebbe molto bello, e ci sono tante stazioni dalla Russia, dall'Inghilterra. Io ad esempio stamane stavo ascoltando una stazione che stava dando le notizie, diciamo, sulla stazione lì del mar nella Russia, faceva la Siberia, il mar Artico, praticamente stava dando i bollettini di tutta quella zona. Quindi se non sei appassionato come te, che magari spesso non trova nessuno qua perché sono tutte lavori, cioè, si potrebbe dedicare anche a questa cosa, ecco. Sì, lo so, infatti anche io con questa radio che sto usando adesso, alle volte vado oltre le frequenze, appunto, sento anche delle radio, forse sono radio nazionali, sono broadcasting sicuramente, non solo, oppure tante volte anche avanti ieri, ad esempio, con il computer stavo ascoltando su Walk, mi sembra, SDR, e sentivo da Roma 2, da Roma 4, poi, perché quelli parlavano in italiano, ed erano su una frequenza esattamente della 27, questi due che stavano parlando, 27 e 175 stavano parlando. Io per curiosità sono salito e ho acceso la radio qua per vedere se li potevo sentire, invece no, perché con i miei era SDR, insomma, ho fatto l'ascolto, tante volte vado sul computer e faccio quell'ascolto, oppure la notte, a volte mi sveglio molto presto, la mattina verso le 4 anche, no? Io vicino ho la radio, metto le cuffie e accendo onde medie, accendendo le onde medie e incomincio a girare la sintonia, e sono riuscito ad avere il giornale radio della Liguria e anche dell'altra chiesa, non mi ricordo se era della Toscana, sì, della Toscana, l'altro, per dire, no, a onde medie, cose che a onde medie ormai in Italia non trasmettono più, però parlavano in italiano, evidentemente erano delle trasmissioni italiane che su quella frequenza prendeva, ma solo di notte tardi, molto tardi, e io tante volte, perché alle volte mi sveglio molto presto e allora non riesco più a dormire, mi accendo la radiolina, metto le cuffie e incomincio a girare la sintonia, e tante volte ho ascoltato i notiziari della Liguria, i notiziari della Toscana, eccetera eccetera, e altre cose che magari radio spagnola, che poi non capisco la lingua, però ci sono queste cose, le seguo tante volte, solo che quello che mi frega è che non capisco l'inglese, ad esempio. Lo so, ma quello sarebbe il limite, il minimo. Voglio farti ascoltare una cosa che sicuramente non riesci a capire cos'è, perché giustamente è un segnale. Vediamo un po' se si sente. Vediamo un po' se lo fa. dall'altro, mentre quando lo vuoi non c'è. Questo è normale segnale. Eccolo. Hai sentito quella specie di grattugia? Sì, che l'ho sentito. E che cos'è quello? Quello praticamente è un sistema HF, si chiama HDFL, che è usato praticamente dagli aerei. Tu lo puoi benissimo decifrare collegando il computer alla radio, non è una grande cosa. Ci sono tantissime frequenze su cui ascoltare. Questo è trasmesso da una stazione della, non so se sia della RAF, che è esattamente in Islanda. In Islanda. Cosa fa? Praticamente riceve segnali dell'aereo sotto forma di segnali digitali, per l'appunto, in cui l'aereo dalla sua posizione le dice che ne so, il carburante che ha, tutto il volo che sta facendo, se è tutto regolare, eccetera, eccetera. Una sorta di HR in HF, per chi si ricorda l'H, però è un po' più evoluto. Ed è una trasmissione ovviamente a grande distanza. Questa è la versione aerea, poi c'è anche la versione marina che fa parte del sistema di stress per la navigazione marittima, che riceve navi da tutto il mondo, in tutti i mari, perché il digitale, tu già lo sai, è molto performante per questi lavori. Se vedi che la nave, navigazione, oppure sta facendo una richiesta per poter fare una telefonata, anche se nel mar della Cina o in Australia o nel Mediterraneo, capito? Quindi basta poco, ci sono dei programmi gratuiti, molto molto semplici, e te lo dico perché mi meraviglia che nessuno lo faccia, dato che sono cose poi di una semplicità, oserei dire, disarmante. E tutti gli apparati oramai hanno anche una presa dietro dedicata, basta metterla anche solo in ricezione, non è che devi trasmettere, la metti in ricezione, è come mettere le cuffie in parole povere, solo che collegata al computer ti permette di decifrare tutti questi segnali strani che si sentono e uno non capisce. Ok, ho capito, sì, certo. No, io ho una pennetta che ho praticamente, che è praticamente un SDR, che mettendo nel computer posso vedere e sentire anche i radioamatori, tutte le radio del mondo praticamente, sia in AM sia in FM, banda laterale, eccetera eccetera, anche in CW se ci fosse trasmissione, certo. Solo che avevo cambiato computer e questo programma, cioè questa pennetta, ormai su quel computer non posso più vedere, più ascoltare, perché vuole installata e io giustamente non lo so fare. A me me l'aveva installata un amico, che tra l'altro è anche radioamatore, che poi non c'è a Sassari, me l'aveva installata lui. E sentivo abbastanza di tutto, anche radio nazionale, di tutto. Però adesso ho messo da parte, non lo sto più utilizzando, proprio perché avendo cambiato il computer, lì non essendo installata, e dunque non lo posso, io non sono capace, per cui non mi interessa più di tanto, sia ben chiaro. Però già sentivo, vedevo tutto lo spettro di tutti quelli che trasmettevano, di tutte le frequenze, sia in 10 metri, in 20 metri, in 30 metri, in 40, in 80, dappertutto, insomma, vedevo tutto lo spettro di tutto. E io col mouse mi spostavo e vedevo dove c'era il segnale, mi stabilivo lì e sentivo. Solo che la maggior parte delle persone erano tutte straniere, io ripeto, non conosco l'inglese, per cui avevo quei limiti lì, capito? Vabbè, ma quando ce l'ha scritto sul computer poi è chiaro, lo può anche decifrare tranquillamente. C'era qualcuno che tentava di entrare, mi sembra, anche se stai parlando, vediamo se c'è. Avanti, chi voleva entrare? Avanti? Propagazione deve essere. Cioè, a volte è una cosa impossibile, parlano e tentano di sopravvivere, boh. Forse propagazione, perché sento un bisbiglio, però non capisco quello che sta dicendo, è proprio un bisbiglio nel vero senso della parola. Magari l'idea te sarà anche più forte, essendo lì in altura, eccetera, e poi con la tua attrezzatura è diverso il discorso. No, sta prendendo un detersivo questo, capito? Oh, yeah. Sì Giulio, è così, però è un campo, ripeto, che magari a molti piacerebbe, ma non prova perché pensa che ci voglia chissà che cosa. Si vuole permettere, non le conosco bene neanche io, però sono tutte abbastanza recenti, sono fatte in, credo che siano canadesi queste, una canadese e l'altra è, ne ho altre due, ne ho però tre e quattro, però preferisco sempre il collegamento su apparato, è più agevole, funzionano bene devo dire, però prendono anche un sacco di stazioni spurie. Questo credo sia a Cagliari. Dei napiganti, dai, chiamano così. Una volta era in AM, quando vedete la proposta del radio, l'hai conosciuta la stazione? No, qual era? Chissà quante volte ci sei passato davanti, quando esisteva a Porto Torres Radio lì sulla strada per andare a Balai vicino, diciamo così, dove di fronte a quella spiaggetta dove vanno un po' tutti lì, c'erano dietro, dove c'è il cimitero, no? Perché dietro poi c'è il cimitero, c'erano due antenne a traliccio grandi, e quelle trasmettevano, facevano un servizio radiotelefonico. Quando li ho conosciuti io, che era abbastanza piccolo, trasmettevano in AM. No, io mi ricordo che tanto tempo fa avevo un ricevitore, quando partiva la nave la sera, dalla nave stessa le persone telefonavano, evidentemente c'era qualche telefono pubblico in nave stesso che pagavano, non so cosa, quanto pagassero, per telefonare alla famiglia mentre loro erano in navigazione. E io riuscivo ad ascoltarli, ascoltavo molto, ma molto chiaramente, praticamente come al telefono, li sentivo anche meglio nel telefono e con una certa potenza del radio anche. E sentivo io con questa radio, sentivo appunto le telefonate che facevano i passeggeri che c'erano sulla nave, che si erano imbarcati, e telefonavano alle famiglie. Io ascoltavo col dialogo che facevano loro con le famiglie, per dire, no? Questo, ma poi non l'ho più sentito, evidentemente hanno cambiato il sistema, magari sono passate in digitale, non lo so se c'è ancora questa possibilità per i passeggeri. Sì, quello di cui stai parlando è il servizio di ERA, il servizio di radiotelefonia marittima che veniva fatto per i passeggeri oppure per i marinai, eccetera, eccetera. E tu sei andato tante volte sulla nave, presumo, come ci sono andato io. E se salivi c'era una piccola stanzetta dove c'era un normale telefono, sembrava perlomeno un normale telefono, in cui dalla stazione radio ti passavano la chiamata. E allora c'era Porto Torres Radio, erano veramente in gamba e quelli. proprio, che adesso non c'è più perché viene tutto, ha preso tutto la Telecom da tanti anni e viene tutto svolto tramite radiocomandi da Cagliari, perché la stazione radio adesso è di Porto Torres e anche di Porto Cervo, lì dove c'è per andare, adesso non mi ricordo, fuori Cagliari, è su una strada che va dove, adesso non viene. Comunque c'è una grossa stazione radio lì e dirama in tutta la Sardegna e comunque in buona parte del Mediterraneo. I bollettini e così via, come c'è Taranto, Livorno, Civitavecchia, eccetera. E all'epoca quello che sentivi tu erano proprio quelle telefonate che allora venivano svolte in AM, poi non le sentite più perché finalmente sono decisi a passare SB, capito? Quindi sentivi magari dei rumoracci e non più la stazione. E queste telefonate costavano parecchio, erano a minuto, quindi era livello di teleselezione. E di lì l'operatore, quando ti passava la chiamata, metteva il cronometro e poi ti diceva alla fine, sicuramente te lo ricordi, sono 11 minuti di telefonata, e quindi tu sapevi già quella la tariffa che dovevi dare all'utente che ti aveva chiesto di telefonare, tutto lì. Non era il coso di che faceva il numero chi voleva telefonare, era l'operatore radio che ti passava la comunicazione in questa cabina, in questa specie di telefono piccolo. Capito Giulio? Adesso invece è tutto moderno, oramai con i telefonini già quando esci dal porto riesci comunque a telefonare, poi quando ti allontani hanno un servizio di link via satellite, quindi anche se sono in mare possono ugualmente telefonare, magari la chiamata le costa in più perché le metteranno in roaming, quindi è fattibile comunque. Sì, infatti adesso non sentono più. Che poi tra l'altro io un ricevitore così adatto per quello ce l'avrei, che è una AOR 2000 mi sembra, o 1000, non lo ricordo bene. E con quello, ti dico, sempre con quel ricevitore lì, sentivo anche allora, io sto parlando di un bel po' di anni, sentivo anche le telefonate delle case, dalla casa, uno telefonava a una famiglia, io sentivo il QSO, addirittura sentivo anche lo squillo, come quando faceva la chiamata, il telefono squilla, no? Che sta chiamando, e sentivo anche quello, se mi ricordo con la buona anima di Giovanni, uno che anche lui modulava in 27, Giovanni Ciclone, si chiamava in frequenza, e te l'avevo ordinato io a lui, questo ricevitore, costava 749.000 lire allora, era praticamente un portatile. E la sera veniva la mia falegnameria, Giulio, io che ascoltiamo un po' di telefonate, e tu sentivi certi discorsi al telefono, e chiaramente magari noi non dovevamo ascoltare il fatto degli altri, però incuriositi, tu lo sai come succede, no? E sentivamo, e più di una volta ho riconosciuto la voce di qualcuno, magari di qualche persona che io conoscevo e che conosco, che anche lui parlava al telefono, magari che so io parlando con la fidanzata, dandoci appuntamenti, ecco, e balle varie. Questo era uno AOR 2000, se ricordo bene, il ricevitore, mentre quello qui io mi sembra che è AOR 1000, ma è la stessa cosa, e lavorava sulla frequenza dei 450 per le telefonate e anche sulla frequenza intorno vicino ai 900 MHz. Su quelle frequenze lì c'erano le telefonate proprio delle persone, che uno telefonava e io sentivo. Sì, Giulio, quello lì però è un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando. Quello lì era sì, il vecchio sistema, non era neanche GSM, allora c'erano quasi tutti, c'era il Motorola, ce l'ho avuto anch'io tra l'altro, e quando è nata la telefonia sui 400 prima e sugli 800 dopo, ed era della telefonia analogica. Adesso scatola lì non esiste più, non può esistere più, perché adesso insieme al telefono ci sono i dati, è tutta una trasmissione dei dati in realtà, quindi c'è la parte fonia dalla normale telefonata e poi c'è la parte dati che comprende internet eccetera eccetera, quella che c'è adesso è 4G, l'LTE, il 3G, insomma tutta una serie di protocolli che sono completamente digitali e non si possono intercettare, ecco, perché tra l'altro c'hanno anche una certa criptatura particolare, anche se pare abbiamo craccato. Quello che ascoltavi tu era quello che ascoltavano tutti, che sentivano le celle di allora, che non esistono più, proprio sulle frequenze che hai detto, prima 450, che era il sistema più vecchio, erano dei telefoni a valigetta addirittura, mi ricordo, e poi sono usciti Motorola, Fartac, eccetera, che erano, non erano altro che le radio B-banda, in parole povere, e quindi andavano sugli 800, e c'erano lo shift, no? Credo che fosse la gamma di trasmissione 820 qualcosa, mentre quella della cella di risposta era 800 anche 900, giù di lì, tutto lì, mentre invece quella nasale era un'altra cosa, quella lì veniva svolta in HF, a tutt'oggi se ne sentono ancora, però sulla gamma proprio un po' più alta, intorno agli 8 MHz, che sono, diciamo, per le navi che sono fuori portata fuori portata da altre stazioni, ecco, perché sono in mari particolari, tipo Mar Baltico o Atlantico, in zone in cui le comunicazioni sono per lo più possibili via satellite, oppure in HF. Come via satellite una telefonata che costa un patrimonio, quelli sono operai, sono su mercantili eccetera, quindi se vogliono mantenere il contatto spesso chiamano, telefonano ancora tramite HF facendo la richiesta alle stazioni costiere più vicine, tutto lì. Allora che non c'erano tutte queste forme di criptatura ci si divertiva in effetti. Sì, oggi è tutto criptato, per cui non senti più praticamente tutte queste cose. Sì, qualcosina ancora si può sentire, che so io, a livello di qualche arma, dai. Prima si sentivano molto anche i vigili urbani, si sentivano, e non solo, anche altre armi si sentivano. Una volta ero molto, siccome io già avevo anche molte armi, questo ricevitore, ma lo portavo lì, lo tenevo tutto il giorno acceso e sentivo tutti i movimenti e tutti gli interventi che facevano il vigile, no? Perché tutte le volte che c'era qualcosa da fare, ad esempio la rimozione di una macchina che era in divieto di sosta, che so io, oppure davanti a un passo carrabile, eccetera, no? E loro chiamavano il comando e che stavano eseguendo questo tipo di lavoro, per cui io sentivo tutto. E un bel giorno sento questo, è passato questo vigile, è passato a piedi, questo qui era a piedi, e ha visto una persiana che proprio nel palazzo a fianco dove ero io, che questa persiana era appena il lume che stava per cadere per strada, no? Stava per cadere, anche perché era tutta rotta. Beh, questo evidentemente ha telefonato, che so io, al comando, e il comando subito è intervenuto chiamando i pompieri, e i pompieri poi sono intervenuti e questa persiana poi l'hanno staccata, perché era pericolosissima, poteva cadere sulla testa di qualcuno, per dire, no? E quando ho sentito il movimento che hanno fatto loro, l'ordine che hanno dato, che ho sentito i vigili che avevano chiamato i pompieri eccetera, sono uscito fuori e c'era quello a fianco a me, adesso arrivano i pompieri, mi chiamano per buttare giù quella persiana che sta cadendo. E come faccio a saperlo? Io non ti preoccupare, come faccio a saperlo? Non ve l'ho detto come ho fatto a saperlo, perché io l'avevo sentito appunto in questo ricevitore, quello che avevano detto i vigili. Sì, ma a quell'epoca quasi tutti ascoltavano, poi sono tutti passati su Tetra. Tetrapol che è sempre quello più tardi, che è un sistema digitale praticamente che include vari servizi, anche se diciamo c'ha dei limiti, cioè una cosa molto intensa in cui possono convergere vari enti, però la portata non è molto grande, ecco. Quindi non ti aspettare che vadano lontano, e quindi c'hanno tante celle in tutta la città. Se tu guardi, dovunque c'è un ponte anche telefonico, vedi un'antenna verticale, quello lì è il Tetra praticamente, perché si basa proprio sulla possibilità di essere ripetuto. Una di quelle antenne serve un po' tutti quanti, e questo è il grosso vantaggio di questi sistemi digitali. Praticamente adesso sono tutti spostati, perlomeno il Tetra in Italia dovrebbe essere, se non ricordo male, tra i 390 e i 410, una cosa del genere. Se tu guardi proprio con quelle chiavette vedrai tanti segnali quadrati molto potenti che non sono altro che tutte le celle che diffondono il segnale Tetra praticamente di tutti questi enti. Tutto lì, però è molto difficile, è tutta in salita quello, ascoltare. Ve lo credo, poi ci vogliono apparecchiature, non certo le apparecchiature di prima, prima erano giocattoli con le apparecchiature sentivi, oggi no, con quelle apparecchiature non vai da nessuna parte, ci vuole apparecchiature, sì, ci vogliono per poter ascoltare, soprattutto ci vogliono antenne anche. Vabbè, col computer è diverso, quello sì è vero, perché vedi lo spettro, vedi e puoi sentire, puoi capire, che riesce a decifrare, tanto di guadagnato, ma non tutti sono in grado di decifrare, perché certi segnali, certe cose uno le deve anche conoscere, per cui non è tanto semplice. Figurati. Vabbè, dai. È un bel dialogo quello che stiamo facendo, tutto basato sull'elettronica o Gioca. Magari c'è qualcuno che è in ascolto e sarà forse interessato, però non è interessato magari a partecipare al nostro QSO. Vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno sul canale 10? Più di uno ce ne sarà, però nessuno vuole entrare. Avanti Gioca. No, c'è tanta gente che anche non vuole. Guarda, paradossalmente, lo dicevi forse anche tu qualche giorno fa, non lo vuole sapere, non le piacciono questi discorsi, perché essenzialmente è una reazione al fatto che non li capisce, non sa cosa stiamo dicendo neanche, e pensa che poi siano cose irraggiungibili dal punto di vista suo, ma anche molti radioamatori ci sono. Sono abituati alle cose vecchie e di lì sono fermati, mentre invece la nostra attività è un po', deve essere versatile. D'altronde, se tu fossi stato fermo nella tua professione non avresti utilizzato più il banco con la sega circolare, magari anche con qualche macchina utensile particolare per fare gli spigoli, per fare gli incastri e così via. Saresti stato col vecchio segaccio, quello che utilizzava San Giuseppe, che era falegname, però non sarebbe andato a nessuna parte, ovviamente, capito? Sì, beh certo, poc'anzi io avevo fatto una battuta quando stavamo parlando dei muratori, no? Che ai muratori, a tanti muratori, io ho sempre detto, tu ancora non sei muratore, perché non sei nemmeno manovale ancora. È lo stesso discorso con rispetto per chiunque, lo posso dire anche fra i radioamatori, perché anche per i radioamatori io più di una volta ho detto, ma ci sono tanti radioamatori con tutto il rispetto che non sono nemmeno CB ancora, per cui non so se mi spiego o già fa. Io vi sto ascoltando, Noi siamo qua, se tu entri parliamo insieme, no? E ci fai anche compagnia. Kappa, buonasera a tutti. Ero per fare la lavagna e vi stavo ascoltando al piano di giù. Ok, però ancora noi non abbiamo l'orario per poter venire lì a cenare con te, anche perché non ci hai invitato. Ciao Antonio, salutoni, ti mando avanti Gianfranco, ma forse lui non ti sente, ma forse sì invece, dai, avanti Gianfranco. Antonio, l'hai sentito Antonio Bombolo? Certo che l'ho sentito, sì, lo sento. sono distante, ma non al punto di non poterlo sentire, lo sento anche abbastanza bene. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Qua Gianfranco, da questa parte. Stavamo parlando sia un po' dei tempi passati, sia un po' dei tempi attuali, e molte cose ovviamente sono cambiate. Noi adesso siamo grandi e quindi a stare dietro a certe cose ci viene anche più difficile, perché sono cose sempre in movimento, che cambiano, ogni giorno c'è una novità, quindi magari quando ci arrivi tu quelli là sono andati tre passi avanti, tutto lì è una specie di corsa attacco. Già lo so, neanche si muove l'ago, zero di stazionaria. Sì, ti stavo ascoltando mentre stavo preparando il sugo, e poi sono salito qua nel piano di su, e ho detto, beh, adesso vado a salutarli. Ok, mi auguro che sia un sugo, diciamo, buono, ecco, non so se è normale o qualche contorno particolare, alla pescatora, che so, al ragù, di quel tipo. Riprendi Giulio. Ok, e tu mettici anche qualche salamino, qualche pezzo di salsiccione dentro, così esce più buono. Così quando condisci la pasta col sugo, anche la pasta sarà più saporita, non ci sono dubbi. vabbè, tu attrezzati, faranno molto con l'antenna, spero che tu ci stia pensando, perché a me mi arrivi Santiago 5, oggi vabbè, tranquilla la giornata, non c'è QRM, ti sento anche molto bene, la radio è pulitissima. Però quando incomincia adesso l'inverno, fra un po' incominciano le piogge eccetera, con quel segnale probabilmente non farò fatica ad ascoltarti, perciò pensaci adesso che ancora il tempo è buono, fatti fare un'antenna da Lucca e così te la piazzi lì in quella nuova dimora e possiamo parlare a lungo e molto molto bene anche. Ok Antonio, riprendi. Cavolo, ce l'ho sul tetto, veramente proprio, perché è basso il palo, capito? Evidentemente è proprio negativo in quel punto lì. Ce l'ho sul tetto, mi ce l'ho. Non lo so quanto li sto arrivando a Gianfranco, ma sicuramente non lo so. Guarda, qua ti posso dare un controllo solo generico. La radio è un po' rimbombante, evidentemente stai parlando un po' lontano dal microfono. Il segnale è abbastanza buono, è un punto S al di sotto di quello di Giulio, però ripeto, l'apparato non c'ha un vero controllo di segnale, quella lancetta o di altro tipo. Arriva fino a 9, credo, a 10, però è palese, capito? Quindi non è molto affidabile, però il segnale si direbbe forte. Guarda, un pochettino meglio così. No, un pochettino peggio. Ti porti appresso anche un fischio, un inizio di innesco, sempre il suo problema che hanno tutti i CB, amplificazioni esagerate e così via. Purtroppo l'AM non funziona come certi pensano, oltre una certa soglia poi va in tilt. Sì, ho sbagliato, ma guarda a vedere se va meglio. Ecco, adesso siamo tutto un altro sugo, dato che siamo in argomento. Capo, ho sbagliato il pulsante, ho sbagliato. Sì, adesso la radio è più bella, più pulita, e va benissimo così anche. va benissimo, però ripeto, oltre alla radio io parlavo di segnale poc'anzi, no? E tu già lo sai benissimo, non c'è bisogno che tu lo spieghi. Quando c'è QRM allora è difficile con quel Santiago sentirti, ed è per quello che ti sto consigliando di metterti l'antenna adesso che ancora il tempo è buono, non stare lì ad aspettare quando incominciano le piogge, che sarà più difficile farlo. Invece, perché adesso dalla zona dove sei tu, ricordati lì, un po' più avanti, zona stazione, tanto per fartene un esempio, per dirtene uno, c'è Gianni Rubaufetta, si fa chiamare al baracchino, e ha una semplice boomerang, quelli con lo stilo e poi uno stilo corto, ma arriva dappertutto con quel tipo lì, mentre invece l'antenna che hai tu, quella tua è attorno, quella lì non è un'antenna adatta per la città, è un'antenna adatta per la barca, perché? Perché quella usufruisce del piano riflettente del mare, allora sì, esce lo stesso, però esce con una potenza minimissima, ecco per quale motivo ti sto dicendo di cambiarti l'antenna tu, vai. Aspetta un attimino. Ok, vai Giofra. Bisogna girarlo il suo, sennò si attacca, occhio. Buonasera a tutti, Ciao Manuele. Ciao Giulio, come sentite dai? Come sentite anche a Gianfranco e a Bombolo. Vai Giulio. Ok, ciao Manuele. Ben ascoltato anche a te. Sì, e ci siamo un paio d'ore già a noi frequenza e nessuno ancora si era affacciato. Avanti Giofra per Emanuele. Sì, ciao Emanuele, buonasera, ben ascoltato. Una curiosità, da dove sei? Perché il tuo segnale è un po' più forte degli altri. Zona Mino Delta, Gianfra. Sono proprio convinto Giulio che ti arrivo pazzo. Adesso sei Santiago 7, scusa Emanuele, sì, adesso sei aumentato, Santiago 7 adesso, però ripeto, sono sempre segnali che poi quando ci sarà un QRM forte, soprattutto in giornate che piove eccetera, ci sarà sempre difficoltà ad ascoltarti o altrove, è per quello, se tu metti l'antenna sopra ma rivedersi 9.5, 9.10, come mi arriva ad esempio quell'amico che ti ho detto poc'anzi che è lì nella stessa strada dove sei tu. Solo per quello te l'ho voluto dire, no? Ti mando avanti comunque adesso Emanuele, vai Emanuele per Antonio Bombolo. Ciao Antonio Bombolo, non so se mi ascolta, attento. Ho voglia che ti ascolta Emanuele. Ok, devi mettere un'antenna, tu c'hai la bazooka, ce l'avevo anche io una bazooka sul tetto, non prendevo una cilindri. Sì, anda, solo che è troppo bassa, devo salire un po' di più. Ok dai, bianco per me che io vado a vedere come procede. E di la verità, vai a mangiare, di la verità. Va bene, a tu, d'accordo, siamo qua, casomai, se credi siamo ancora qua. Avanti Giafra. Sì, siamo tutti qua oramai. Giulio, da quando abbiamo iniziato c'ho sempre in funzione lì anche gli altri apparecchi, ma non è una risoluzione che non ti dico, guarda, ogni tanto puoi ascoltare un colpo importante sul link nazionale, poi è tutta terra bruciata veramente, non esistono più, a volte c'ho la sensazione di essere l'ultimo dei moicani, capito? Sì, ma è così, lo so, ormai diciamo che si diceva tutto il mondo è paese, io dico tutte le frequenze non è che sono molto diverse l'una dall'altra, o meglio sarebbero diverse se ci fossero le persone che le userebbero come si deve, comunque sono in quel senso lì intendevo. Avanti Emanuele. Dai, ne approfitto per staccarmi. Ok, ma cosa stai usando? Il lineare stai usando, Emanuele? No, io sono collegato all'altra antenna, mi senti? Io ti sento sempre, ma prima eri stato addirittura, o quasi, dai, non era una radio pulitissima. Va bene, sì che ti sento. Va bene, ma stai chiudendo perché? No, mi stacco un attimo che devo fare alcune cose. se prendi pure con Gianfranco o giù. D'accordo, a dopo allora se coincide di nuovo. Avanti Gianfranco. Sì, ciao allora, ciao Antonio e ciao anche Massimiliano o Manuele, ogni tanto mi confondo, vabbè comunque. E niente Giulio, tutti siamo un deserto, tu figurati, nonostante il periodo in cui siamo, ovviamente molti non escono sempre per la stessa questione, quindi si rimane più a casa. Io penso che l'inverno sarà una tristezza micidiale, tra l'altro la giornata non è anche bellissima, anzi è anche un po' fredda. Sì, beh certo, in effetti infatti io speravo tutta la giornata che non è proprio quella ideale dell'estate, che entrasse qualcuno per fare questione, invece evidentemente hanno preferito uscire, anche se il comunicato che ha dato il comune da oggi è obbligatorio portare la mascherina sempre in strada, non solamente all'interno dei locali eccetera, anche per strada. Il comunicato del comune di Sassari era obbligatorio portare la mascherina, poi non so quante persone l'abbiano usata oggi la mascherina, è già fra. Perché purtroppo già lo sai come succede, no? Quando non ci sono gli atti tutti ballano, è sempre lì la storia. D'altronde non so se ma anche questo sindaco, tra le altre cose, è anche medico, quindi se ha visto sarà rimasto anche lui un pochettino preoccupato, perché non è una bella situazione. La Germania, non so se l'hai saputo, ha aperto le scuole, ma molte scuole l'ha dovuto subito richiudere perché molti ragazzi, molti eccetera, sono stati contagiati. E da noi non penso che sarà una cosa diversa, quindi chi si illudeva, chi faccia già progetti di grandi cose, è stato smentito, perché purtroppo la situazione è quello che è, al virus di noi non ne frega niente, quello dove trova si attacca e ciccia. Sì, infatti, poi c'è stato anche un comunicato dell'ospedale di Sassari, appunto, che invitava le persone alla prudenza, soprattutto a usare la mascherina, perché dice il virus prima era solo negli ospedali e nelle case di riposo, invece adesso purtroppo è in giro ed è pericolosissimo per tutti quanti. Per cui questo medico, lui ha fatto questo appello da divulgare magari tramite WhatsApp alle persone, infatti a me quando me l'hanno mandato, poi per un po' di persone l'ho mandato, perlomeno quello che ho i numeri, ciccia. Ed era un appello fatto dall'ospedale di Sassari, cioè dalla Stecca Bianca, mi sembra, quella di San Pietro, insomma, ecco. Quando non so, perché diciamo questi comunicati fatti via WhatsApp non è meglio neanche non leggerli, mentre invece sono da leggere quelli fatti sia dall'azienda mista sia la SL, che sono quelli ufficiali, tutto l'altro sono chiacchiere e ciaramiti, quindi è meglio lasciarli perdere, sempre guardare le notizie che vengono diffuse da chi le deve rispondere, non da un medico che si alza col piede sbagliato, che tutto lì. Comunque la situazione è quello che è, su questo non ci piove, molta gente si è illusa, è tutto finito, andiamo a divertirci, facciamo casino, tanto a noi non ci tocca, invece quello che dovrebbero realmente dire è che qualche gioco non è anche finito male, tutto lì, per togliere un po' di illusioni che c'è gente che è immune, perché hai visto cosa sta succedendo in Francia, in Germania e anche in Inghilterra, che la gente sta iniziando a negare l'evidenza, dice che non esiste il virus, e quindi quale pare che passavano da noi forse erano vuote secondo Luca Buri alcuni. Infatti quei camion carichi di bare secondo loro erano così fatte per il gusto di trasportare bare, oh yeah. No, non è possibile, c'è la gente, guarda, alle volte è proprio incosciente, soprattutto i giovani che hanno rovinato quello che noi avevamo fatto e soprattutto culato in quei mesi famosi, in quei mesi scorsi, lo hanno rovinato tutto il lavoro che è stato fatto prima. No, non è possibile, ragazzi, solo per il gusto di andare a divertirsi, a ballare, a fare, eccetera, eccetera. Ma comunque, cosa vuoi dire? Che io sono un po' preoccupato per i bambini della scuola, che adesso fra non molto apriranno le scuole, anche qui a Sassari, e vedrai che razza di macello che succederà. Portare le mascherine, i bambini con le mascherine, figurati se il bambino la mascherina se la tiene sulla bocca. A parte il fatto che esce con la mascherina da casa e a scuola, quando arriva a scuola è già rotta, no? E dunque, e poi questo fatto di aver fatto i banchi con le rotelle, ma quando mai? Da quelli fanno l'autoscontro, fanno l'autoscontro i bambini a scuola, convinti sono loro di aver fatto chissà che. Se invece avessero fatto le cose più seriamente, perché ci sarebbero anche gli spazi da sfruttare, solo che no, questi spazi non vengono sfruttati. Altro che aule così di scuola, eccetera, ce ne sarebbero posti dove c'è tanto spazio per poter mettere i banchi distanti l'uno all'altro. Che poi anche il fatto della distanza non so quanto sia valida, perché intanto quando arrivano i ragazzi sono uno sull'altro solo, lo sai come sono a scuola, per carità. Vabbè, speriamo che non succeda niente di grave, ma ho tanta paura io per queste ragazze, figurati già fra. Chi è che non è? Anche perché sono un eccellente vettore del virus, poi perché lo portano a casa, lo portano in giro e se ne vedranno delle belle. L'inizio deve... lo vedremo a ottobre, novembre, dicembre per allietarci il Natale, no? Ci sarà qualche regalo sgradito. Riguardo ai banchi o le rotelle, chissà quanti ne hanno comprati, ne avranno comprati magari 10-15, ma poi Occhi di Triglia e l'amico suo stanno facendo delle cose indegne, veramente sono dei... Vabbè, non voglio dire cose un po' spinte, però è gente veramente da poco. Il nostro problema è che si ha sempre questa memoria così corta, e non si ricorda cosa hanno fatto, si dimenticano che anche loro sono responsabili, perché anche loro, la destra e compagnia cantante, sono stati al governo e la gente si è dimenticata che eravamo lì per essere rovinati. Basta vedere che ci hanno regalato la Fornero, ecco, questi signori. Quindi si dovrebbero almeno avere il ritegno, siccome sono gli stessi, non si sono cambiati, ecco, l'abito sempre a trovo, dovrebbero avere il ritegno di almeno farsi zitti. I banchi con le ruote li avranno dati in emergenza da qualche parte, e poi che ci abbiano le ruote o no, ma chi se ne frega, l'importante è che siano banchi che si possano usare. Mentre non guardano invece il lavoro che si sta facendo, perché un conto è parlare, no? Come stai dicendo tu, come fanno i muratori, parlano, poi al lato pratico si fanno le cose storte che devi buttare a terra. E così sono questi, parlano, però quando si tratta di lavorare sul serio fanno casini e basta. L'abbiamo già visto con quello brutto, che effettivamente è brutto, bello, non è cattivo, che più che cattivo è scemo, sai a chi mi riferisco, è l'altra che ho chiesto di Triglia. Non so se l'avete seguito, ma nel partito proprio di Occhi di Triglia hanno preso uno che inneggiava il nazismo, il fascismo, a mettere gli immigrati, a farli affogare, cose di questo genere, capito? Quindi cose allucinanti, veramente del peggior fascismo possibile, un estremista, uno schifoso, in parole povere, dai. questi se non hanno accettato nel partito per fare il sindaco pure, ma ti immagini un mezzo delinquente tutto pieno di precedenti penali? Purtroppo siamo in mano a questa gente e noi ce li dobbiamo sopportare, però c'è sempre da dire che la politica è sempre stata un vero sacrilegio per l'umanità intera, perlomeno soprattutto per la classe dei lavoratori. Magari poi ci sono i capitalisti che anche quelli sono d'accordo anche con loro tante volte, e sotto sotto magari pretendono certe leggi perché fa comodo che siano così fatte a quel modo. Purtroppo la politica è la bestia nera dell'umanità, come tante altre cose, che adesso non voglio allargare di più altre notizie, però ci sono altri settori che sono anche quelli la bestia nera dell'umanità, per carità, non è possibile giocare. Sì, sono d'accordo con te Giulio, anche se in realtà poi la politica dovrebbe essere una cosa nobile quando è al servizio della gente, dei cittadini e delle persone spesso più deboli, così spesso non è purtroppo. Però fa rabbia, a me fa rabbia che non i politici siano come sono, ci sta, perché non tutti siamo angeli e non tutti siamo diavoli. Però che cavolo, la gente non ci abbia un briciolo di memoria a ricordare quello che certi personaggi hanno fatto, è veramente il massimo. Quindi gente che dà l'esempio, che al posto di stare lì in ufficio a lavorare, a farsi il matto, se ne va in spiaggia a far cadere i governi e tutto dire, non l'hanno mai visto, ha fatto quei due provvedimenti di merda e poi a lavorare sul serio per trovare le soluzioni, o poi se ne va col crocifisso in giro, capito? Per carità, avrei preso la calcia nel sedere fino a rimandarlo con il finuto questo qua. Peccato che nel suo partito ci sia anche gente in gamba, tipo quello del Veneto, che almeno qualcosa sta facendo, ma veramente lui e l'altro e la triglia sono penosi. Ti dico di più, che dobbiamo stare attenti, perché se domani questi entrano, l'Europa ci manda quel paese, quindi molti finanziamenti crollano letteralmente, perché per la nostra economia significa veramente la fame, altro che coronavirus. Quello che è vero, purtroppo, ripeto, siamo in mano a questa gente, ci sono quelli che li appoggiano purtroppo e loro rimangono. Ma adesso prendiamo quello che sta succedendo oggi stanno votando per la riconferma di quel famoso referendum che si era fatto, mi sembra, nel 2018, no? Ma se si è già fatto il referendum per diminuire il numero dei parlamentari, sia al Senato che alla Camera, non capisco per quale motivo oggi e anche ieri si doveva andare a votare. Io non ci sono andato e non so nemmeno se a Sassari si vota, questo non te lo so dire. Per quale motivo fai di nuovo questa la conferma di che cosa? Quando tutta l'Italia, mi sembra che era il 90%, una cosa così, dei suffragi, che voleva il taglio dei parlamentari. Per non parlare poi che sono una trentina di anni che tutti i partiti, tutti indistintamente, di qualsiasi colore, hanno sempre parlato di taglio di parlamentari, però non l'hanno mai fatto. Ma dico io, o cosa stanno prendendo in giro la gente, Gianfranco. Purtroppo siamo in mano a questa gente qua. Avanti, chi vuole entrare? Sentivo tanti disturbi, chi vuole entrare? Io sono Antonio, come va adesso? Sono un po' che non lo uso questo qua. Tutto disturbi, alternata anche. Gioca. Confermi, giù? Sì, era tutto pieno di rumori e poi anche la radio era sporca, era satura. Evidentemente hai attaccato qualcosina che ti aumenta la potenza, perché di segnale è aumentato qualcosina, non molto, però sei uscito malissimo del radio tu, per cui non lo so. Vedi tu, riprendi Antonio, riprendi già qua. Sì, no, su quello che riguarda il referendum mi permetto di dire che sbagli, perché è un atto dovuto quello di farlo, perché prevede, essendo una cosa costituzionale, prevede vari step. Tra l'altro uno step proprio che prevede, tant'è vero che essendo un referendum confermativo oppure abrogativo, come ogni democrazia dei civili stessi, ti viene chiesto: ma questa legge di togliere questi parlamentari la approvi o no? Tant'è vero che non c'è neanche quorum, quindi possono andare anche tre persone. Se due di queste tre persone ti dicono di sì, i parlamentari vanno via, è ovvio. E quindi non è una cosa fatta per gusto, è una cosa che è prevista proprio dalla Costituzione e quindi, che piaccia o no, deve essere fatta. E non c'è quorum. Poi Giulio giustamente ha detto che se ne parla da tanti anni, sai com'è, c'è sempre quelle persone che ti dicono sì, non ti preoccupare, ci penso io, tipicamente dei politici, sapendo già che non le farà mai perché non le conviene. E così è per questa storia, sono stati anni e anni tira e molla, ma con la precisa volontà di non farlo. Adesso che saranno obbligati a farlo, finalmente ci riporteremo dentro dei range di presenze decente, ecco, perché fino adesso abbiamo mantenuto tanta gente che di lì non ci doveva proprio stare. Tu ti ricorderai, è sempre ritorno al galla il solito problema della memoria corta delle persone, quanta gente, anche delinquenti, sono entrati in Parlamento, guardati tutti gli avvocati di Berlusconi, i vari mafiosi, le ciccioline varie, che almeno quelle facciamo vedere qualcosa, ex terroristi e così via. Adesso almeno, se passa questa riforma, speriamo che passi, innanzitutto diventeremo un paese come gli altri, come la Francia, come l'Inghilterra. Loro non hanno l'Inghilterra, che ne ha di più, in realtà ne ha di meno. Gli altri che ci sono senza stipendio, quindi te li voglio vedere questi che vanno a lavorare senza stipendio domani. Quindi sono tutte cose, scuse, che stanno trovando anche all'ultimo minuto, perché hanno detto: cavolo, vorrei che ci fregano e perdiamo la nostra poltrona. E sarebbe ora che la perdessero, perché molti che ci vanno, e tu lo sai benissimo Giulio, sia all'ISMA, sia anche alle regioni e compagnia cantante, e tutta gente che spesso non ci va neanche, cioè li paghi per bellezza, perché hanno provato la cuccagna. Guardati quello che avevano fatto entrare, Scilipotti, ci hanno fatto entrare, ma secondo te ha discusso qualche legge, ha fatto qualche proposta? Si è pigliato l'Irina e lui stesso l'ha detto: io sono qua per i soldi, non mi sembra vero essere entrato, adesso me la spazio, ho tanti privilegi, però non ha fatto niente, mentre di lì è un posto in cui si dovrebbe andare per fare qualcosa per la gente. Mentre invece adesso sono tutti usciti con no, indecisi, perché dicono: io cosa faccio dopo lavori, come fanno tutti i cittadini italiani. Riprendi Giulio. Ecco qua, guardate a vedere se va meglio adesso, qualcosa non va tanto bene, no, bisogna controllarlo. Sì, la radio è migliorata, certo che è migliorata, però ripeto, il segnale è sempre basso, non è che sia molto alto, per cui cioè io ti sto dicendo, oggi ti sento bene, non c'è problema, ma domani, supponiamo, se dovesse piovere aumenterebbe molto il QRM e non ce la farei ad ascoltarti. Ecco perché ti dico che dovresti metterti un'antenna performante, come si deve, non quella, come si chiama, una specie, quello lì è un bastone praticamente, è un'antenna che non va bene. Quell'antenna lì, Antonio, io ho letto diversi giornali di elettronica, è un'antenna che l'hanno costruita per essere usata sulla barca, perché può usufruire del piano riflettente del mare, però per altri motivi, come in città o anche su mezzi pubblici, privati, eccetera, niente da fare, non è un'antenna adatta. Ecco perché ti dico, pensaci il prima possibile, perché se no rischi di non farti ascoltare, ecco, tutto lì, quanto. E quello, non è che ti sto criticando l'antenna, non è certamente colpa tua, no, se l'antenna funziona così, ci mancherebbe altro. È quello che intendevo dire, mi capisci tu? Sì, Giulio, non va giù di Nappara, va. Più là me ne prendo una migliore. Vabbè, d'accordo, questo sì, non è che sia una cosa così urgentissima, però se proprio tu hai la passione e la voglia di parlare a baracchino, è quello che ti sto dicendo. Oggi, ripeto, ti sento bene, perché la frequenza è pulita, non c'è QRM, non c'è niente, oggi è pulita veramente. Però pensa a tempi peggiori, tutto lì, avanti già fa. Sì, come dicevano tutti i preti, senza di là non si canta messa, Giulio. E purtroppo ho avuto delle spese, con la casa, con tutto. Per il momento rimane questa l'antenna, ma sono convinto che se mi prendo un altro pezzo di palo in più va ancora meglio, perché dovrei uscire un po' più fuori. Purtroppo ce l'ho, non è che è alta l'antenna, da zero, 1,50 m di palo. Ok, ho capito. Sì, vabbè, non è solamente il discorso dell'antenna, ma guarda che c'è un'antenna che per 50 euro ce li hai, è veramente performante e vanno veramente bene, tipo quella che è a Marco. Tu stasera stavi dicendo che Marco ti arriva fortissimo, ti arriva. Ecco, Marco ha una di quelle antenne da 50 euro e non è così costosissima, per cui va benissimo. Va bene, dai. Sì, Giafra, tornando al discorso dei politici, il referendum, sì, lo so, la Costituzione magari gli consentiva di fare di nuovo andare gli elettori al seggio per poter avere la conferma di quello che si era votato prima, 2 anni fa, ma dico io, se fai un referendum per stabilire una cosa, la volontà del popolo ti dice questo, tu per quale motivo mi devi chiedere la conferma? È come che tu mi dici, lo vuoi mangiare questo? No, e vabbè, e te lo chiedi tu. Dopo un po' me ne ritorni, io te lo mangi questo. Non hai capito che non ne voglio, non ne voglio mangiare di quello io. Ecco, più o meno lo stesso discorso, Gianfra, un po' così alla buona il paragone che ti ho fatto, però io suppongo che un referendum, quando viene decretato dal popolo, quello vuol dire democrazia. Se poi loro ci ripensano e vogliono cercare di far cambiare idea alla gente, perché a loro non sa bene il risultato che si è verificato, eccolo lì, secondo me è un abuso nei confronti della gente, perché hai preso in giro gli elettori. Io l'ho preso così, Giafra, tutto lì. Sì, ma allora come ti spiegano anche quando fanno la pubblicità per le elezioni? Questo si chiama referendum confermativo, cioè praticamente allora prima le hanno chiesto, la vuoi una legge per abolire i parlamentari? Sì, ok, e quindi la facciamo. Questo referendum dice un'altra cosa, guarda, noi abbiamo fatto una legge che prevede che tot siano mandati a casa e tot rimangono, che al Senato tot vanno a casa, quindi è una cosa molto chiara, è come dire, come hai detto tu, per riprendere il tuo esempio, la mangi questa minestra, sì, però loro ti stanno dicendo, guarda che in questa minestra non c'è formaggio. Prima perché io ti posso dire, sì, lo vuoi, sì, prendilo, però guarda che c'è il formaggio, c'è il veleno e c'è quell'altro. Capito? Quindi essendo proprio una riforma costituzionale in cui verrà fatto questa riduzione, è quasi obbligatorio chiedere il parere se ti va bene, mi sembra anche una cosa giusta. adesso c'è una cosa molto chiara, molto semplice, non c'ha come quella che voleva fare Renzi a suo tempo tanti inganni, perché il quesito è uno solo. Sta dicendo, guarda che noi stiamo togliendo 600 e tot persone, noi dobbiamo togliere, confermi, ti va bene? E tu dici sì. D'altronde, Giulio, andare a mettere una firma, una croce non costa niente, anzi. Speriamo di poterlo fare il più possibile, perché la democrazia funziona così, non come in certi paesi in cui quando sei contro t'avvelena, no? Tipo quel poveraccio lì che era in aereo e l'hanno avvelenato. Lo so, già, ma comunque sì, va bene, loro vogliono la conferma di quello, del risultato che c'è stato 2 anni fa, d'accordo. Però se tu pensi che un parlamentare, se tu dividi il numero degli elettori per il numero dei parlamentari, avere un parlamentare ogni 75.000 abitanti o averne uno ogni 100.000 non mi sembra che cambi molto il problema. Mi sembra che più o meno è la stessa cosa. Solo che tu mi dirai, ma questi cosa faranno? Come hai detto tu, vanno a lavorare, vanno anche a zappare se è il caso. A questo punto cosa devono fare? E allora invece si prendono i soldi e in Parlamento non ci vanno. E quando vanno ti danno anche il cattivo esempio alla gente, perché già lo vediamo, che loro sono i primi che lì si azzuffano, addirittura si picchiano. E questo secondo te sembra un modo giusto di governare? Stai praticamente facendo in modo che la gente possa comportarsi come voi stesso, perché l'esempio viene sempre dall'alto, no? E loro certamente non stanno dando un buon esempio al popolo italiano, perché non è possibile, per carità, mamma mia, che razza di gente, ragazzi. Se consideri poi che risparmiamo 300.000 euro, si risparmiano con questi parlamentari se vanno a casa al giorno, e non sono pochi, sono soldi buttati quelli, perché intanto loro non se li stanno guadagnando, tanto più che di politica non ne fanno, meglio fanno politica per se stessi, per mantenersi la poltrona bene incollati, anzi bene abbullonati anche sulla poltrona, oltre alla colla, perché insomma la colla, se si avvaglia la colla va a finire che si stacca, invece ci sono i bulloni, non si staccano mai, e così stanno facendo loro, ecco com'è Gianfra. Già mi servirebbe un po' di quella colla che usano quelli lì per la cadrea, per essere molto buona, ecco, altro che la Treppini dei falegnami, che pure era buona, se ben ti ricordi, quella gialla, no? Che usavano anche i calzolai, eccetera. Quella dei parlamentari è ancora più resistente, chissà cosa è. E non la molla, no? Adesso vedrai quanta gente cambierà casacca, come già stanno facendo, per dire votate no, così almeno rimaniamo attaccati ancora. E poi ti fanno a parlare di rappresentanza, e noi qua in Sardegna di rappresentanza ne sappiamo qualcosa. Ci abbiamo avuto Presidente della Repubblica, sempre qualche ministro di lì o a destra o a sinistra, e la Sardegna proprio se ne è fregata altamente. Una volta che entrano lì, quindi di cosa stiamo parlando, di rappresentanza? Ci occorre un Parlamento come ce l'hanno gli altri, con uomini seri, con la testa sulle spalle, e che iniziano a lavorare come devono lavorare, che già ci sono anche da noi, solo che sai, nel gregge in cui ci sono tante pecore nere, e poi le pecore nere ti fanno fuori, perché anche lì c'è un ambientino che non ti dico. Comunque, vabbè, Giulio, 19, cosa sono, 30? Credo, non lo vedo da quando, sembra 30. Quindi, come si dice, la tavola chiama? Sì, 19 e 38 quasi, è 38, l'orologio sveglia che ho qua sul locomotivo. Sì, la tavola chiama. Va bene, dai, allora ci salutiamo. ti auguro una buona serata, buona cena, appena che la farai, e a risentirci presto. Grazie per la chiacchierata, è stata una bella chiacchierata, abbastanza lunga, forse 3 ore, ma comunque mi ha fatto piacere. Va bene così. Ciao Gioca, abbiamo tenuto alta la bandiera della frequenza della 27 stasera, noi due perlomeno. Ci sentiamo alle prossime, ascolto il finalino e dopodiché ti chiudo anch'io, probabilmente, dai. Avanti Gioca. Sì Giulio, e anche qua purtroppo la gente è calata in maniera veramente enorme. Ce n'è praticamente in tutti i canali, c'eravamo solo noi due, c'erano alcune PMR, però per poco. Di là ancora più in alto, diciamo, su sono altre frequenze, MISBA, c'è solo roba in HF e basta. Però siamo proprio terra a terra, forse la gente si è fatta anche di stare in radio. Vabbè, si guarda la televisione come i vecchietti, proprio vecchietti, giusto? Pazienza, è così. Ciao, buona giornata a tutti, anche agli eventuali ascoltatori. Riprendi giusto per il finale, ciao. Ma salutone anche da parte mia, ce la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ok, ciao Gioca, grazie ancora per la chiacchierata. A presto, dai. Ci risentiremo se Dio vuole. Ciao Antonio, salutoni anche a te, alle prossime. Chiudo anch'io. Ciao, ciao.